La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, eccoci in diretta alle 16.31 primi 58 secondi dagli studi di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Ascolterete domani un'altra trasmissione proposta da un altro ascoltatore, un ascoltatore che ci segue da lontano, dalla Nuova Zelanda. Sarà molto interessante, ma comunque l'avrete capito, se scrivete e proponete noi arriviamo e facciamo la puntata. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un pezzo fondamentale dell'autorità dello Stato, dell'autorità nel senso che è a loro che è demandato territorialmente la rappresentanza e l'esercizio dei poteri di governo, cioè del potere esecutivo. Stiamo parlando quindi dei prefetti, come avrete capito, perché questo è l'importante compito che nel nostro ordinamento è loro delegato dall'Ottocento. Sapete che i prefetti esistono nei codici e negli ordinamenti europei dai tempi napoleonici, per così dire. E perché parliamo dei prefetti? Parliamo dei prefetti perché quello che sta avvenendo su alcune vicende molto delicate, di grande sensibilità pubblica e di grande incertezza della politica, che si combatte a opinioni contrapposte, vedono proprio i prefetti finirci in mezzo, per così dire. E quindi l'opinione che io chiedo a voi, di telefonandoci all'800240024, è di dire, a seconda di quello che voi abbiate capito, e se secondo voi il prefetto, che cos'è? Cosa deve fare il prefetto? Deve limitarsi ad applicare quello che dice il governo, ovviamente in linea con le leggi, oppure di fronte a situazioni di particolare delicatezza deve mediare, perché l'importanza dell'efficacia dell'ordine, della sicurezza pubblica, dell'equilibrio anche rispetto alle posizioni sul territorio, della sensibilità delle popolazioni viene prima rispetto a una cieca ottemperanza di quanto prescrive la legge e di quanto indicato dal governo. Ecco, cioè voi vorreste un prefetto rigido che applica e basta o ne vorreste uno capace anche di mediare? Questa domanda messa così sembra appesa a nulla, però le vicende di queste settimane, mi limito a tre casi, sono vicende sulle quali i prefetti iniziano a dire no, scusate cari politici, ma cosa volete da noi? Perché? Noi abbiamo visto in questi ultimi giorni un prefetto, anzi una prefetto a Treviso sollevata dalle sue funzioni. Per quello che era avvenuto a Quinto, cioè il luogo dove la popolazione ha dato alle fiamme i mobili che arredavano degli appartamenti a cui erano stati assegnati degli immigrati per le quote di assegnazione da parte del governo centrale alle regioni e ai comuni. E viste le reazioni durissime del presidente regionale Veneta Zaia e della politica locale, il governo ha risposto sollevandola dall'incarico. Secondo caso è successo con il prefetto di Roma Gabrielli, che è stato durissimamente attaccato da politici con minacce proprio, sempre su questioni relative alla immigrazione. Il prefetto Gabrielli a Roma è a propria volta, terzo esempio, protagonista di una vicenda che con l'immigrazione non ha a che fare, ma ha a che fare con un'altra vicenda che vede la città e i romani, solidarietà ai romani, non poterne più, perché da settimane e settimane è in atto questo sciopero bianco dei macchinisti dell'ATAC. ATAC, a proposito della quale ricordo che ieri gli organi ispettivi della società pubblica, dopo 1,2 miliardi di perdite ai 5 anni, hanno formalmente ammonito il consiglio di amministrazione che o si ricapitalizza con 200 milioni oppure bisogna portare i libri in tribunale. Il Campidoglio ovviamente non ha i 200 milioni per ricapitalizzare l'ATAC, di cui ci siamo molte volte occupati, e adesso la palla è passata al governo, che dovrà ricapitalizzare anche questi 200 milioni, dove, quando ricordo, abbiamo già fatto negli ultimi 5 anni due interventi salva debiti per oltre 14 miliardi a Roma. Gli altri comuni se lo sognano, però a Roma l'abbiamo fatti, e a questo punto bisogna anche ricapitalizzare l'ATAC. La mia domanda è: ma perché non, dove sta scritto che non deve fallire? Un carrozzone pubblico mangia soldi e clientelare, visto che secondo me è più facile rifare un ATAC efficiente se fallisce quello attuale. Me ne rendo conto, e in questa situazione che cosa avviene? Avviene che dopo settimane di sciopero bianco dei macchinisti, del personale dell'ATAC, che come come sapete, ma se non siete romani forse no, per protesta contro i badge che servono a controllare l'effettiva prestazione del loro orario di lavoro, stanno facendo sciopero bianco, e questo provoca da settimane disagi terrificanti sulle linee della metropolitana a Roma. Ecco, malgrado tutto questo, la precettazione, che ricordo deve essere disposta dal prefetto secondo le leggi vigenti, non arriva. E non arriva perché? Perché quello che si capisce chiaramente non è che il prefetto sia contrario, ma che in quel caso sia la politica circostante, dal Campidoglio a livello nazionale, a dire al prefetto: sì, naturalmente dovresti per legge, ma insomma, vedi un po' tu, quella è già un'azienda che ha rischio di portare i libri in tribunale. Quello che volete, però intanto i diritti del passeggero e dei cittadini che pagano e di chi ha il biglietto pagato, dove vanno a finire? Allora, questi tre esempi per farvi capire quanto alla fine il prefetto sia, anche se ce ne dimentichiamo tranne che per lamentarcene, un ganglio fondamentale nella catena dell'esecutività, della vigenza del diritto nel nostro paese, soprattutto quando si creano situazioni territoriali di disagio o di tensione, ed è il prefetto che a quel punto con le autorità locali ha un compito fondamentale. Ma che prefetto deve essere? Perché queste vicende ci dimostrano che la politica le interpreta che deve essere vicino alle sue, alle proprie valutazioni. Ma se la legge dice diversamente, come in teoria direbbe nel caso delle precettazioni a Roma, e se la legge dice che c'è il piano di riparto tra regioni e comuni, che spetta al prefetto dire: faccio finta che non ci sia quel piano di riparto se l'ha deciso il governo? Ecco, questo è le vicende sullo sfondo, perché la novità è che questa volta chi rappresenta i prefetti, un sindacato dei prefetti, a me fa un po' ridere che ci sia un sindacato dei prefetti, ma questo è un problema mio, ha deciso che è il momento di dire: no, adesso basta, cari politici, noi non possiamo prestarci a questo. E per parlarne, per spiegarci come vivono loro, i prefetti, questa delicatezza di funzione con la politica che li prende a sberle da una parte, li sostituisce dall'altra, oppure gli dice non fare questo o fare quello, è con noi appunto il vicepresidente dell'Associazione Sindacale dei Funzionari Prefettizi, che è vicario del prefetto di Ravenna, Antonio Giannelli. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buonasera a lei. Allora, ovviamente io ho fatto una introduzione non tecnica, per così dire, ma per centrare la questione con i nostri ascoltatori. Che prefetto deve essere, secondo voi? Un prefetto esecutore che non guarda le conseguenze? Un prefetto mediatore? Ma a quel punto come fa a evitare, se media, come sembra che stia venendo a Roma per le precettazioni, a non finire vittima della politica che lo può tirare da una parte, ma a quel punto l'opposizione lo insulta e lo minaccia dall'altra? Ma guardi, questa è una questione, come sa, penso anche un po' gli ascoltatori, antica, nel senso che non è la prima volta. Faccio riferimento in particolare a questi ultimi giorni relativi all'immigrazione, che i prefetti vengono in qualche modo tirati per la giacca per una serie di questioni che possono essere quelli della sicurezza, dove tradizionalmente vengono ricordati, a quella della mediazione delle tensioni sociali. Ecco, a noi da tempo piace, soprattutto a noi che abbiamo pensato qualche anno fa, circa 20 anni fa, di metterci insieme da funzionari dello Stato per cercare di affermare alcune questioni, tra cui proprio questa, cioè quella della assoluta necessità. Noi siamo abituati a stare in silenzio, siamo abituati ad operare in silenzio, una delle prime cose che mi insegnavano. Un po' come i carabinieri, usi a obbedir tacendo. Sì, ecco, in silenzio operare, e spesso anche questa, le devo dire, è una riflessione che è emersa tra di noi, ha portato ad una misconoscenza del ruolo del prefetto. Sono circa 30 anni che si discute sempre di cosa debba fare il prefetto, e ahimè in molti casi i cittadini ci ricordano solo per le multe, la dico in modo atecnico per farmi comprendere da tutti, o per il decreto di espulsione o per i poliziotti che si mandano allo Stato. Il prefetto media, e quella dell'immigrazione è certamente una delle materie nella quali i prefetti, ma già nelle diverse emergenze, sono stati protagonisti. Cosa ci ha portato da ultimo, per arrivare al punto, a dirla tutta da parte del nostro presidente? È perché è qualche mese che il vostro presidente ha detto, titolo sul Corriere della Sera: oramai noi siamo capri espiatori. Ma guardi, c'è una vecchia storia che ci si raccontava, che i prefetti rappresentano un fusibile del sistema, ecco, la dico in modo molto molto molto giornalistica, e devo dire che questa è una cosa che sotto certi profili, adesso non è il caso né la, diciamo, l'occasione per parlare in termini giuridici, ha anche dei fondamenti. Il problema... però attenzione, se vi autodefinite un fusibile del sistema, cioè anche qui, ma a chi non si ricordasse i fondamenti dell'elettrotecnica, un congegno nel quale se ci sono sbalzi di tensione di corrente eccetera è fatto apposta perché tra virgolette saltando si interrompa il circuito, preservi il resto dell'apparato, e come dire, trasporto la situazione dei profeti che mettete la testa di fronte al fatto che il politico per risolvere il problema, siccome non può ammettere di aver sbagliato, aver ceduto, poi vi caccia. Ma è esattamente quello che noi in qualche modo abbiamo voluto dire con questi interventi. Noi non vogliamo essere un fusibile del sistema a prescindere, come avrebbe detto qualcuno, nel senso che i prefetti, pur avendo questa particolarissima conformazione istituzionale e un antico senso del rispetto dello Stato, lei lo ricordava prima, la nostra storia antica, però sono dei funzionari dello Stato che sono tenuti a rispettare le regole che la Costituzione dà a tutti. Veda, se noi dobbiamo avere, se i prefetti devono avere un rapporto col sistema degli enti locali corretto, devono garantire la lealtà, il buon andamento, beh, non possono, tra virgolette, chiudere gli occhi davanti a alcune situazioni. Quando, per andare al concreto dell'immigrazione, lo diceva il prefetto Palomba, lo ripeto io perché è comune da parte di tutti i colleghi in tutte le parti d'Italia, veda, al sud abbiamo gli sbarchi eclatanti per cui c'è una gestione dell'emergenza, ma poi partono al nord, centro nord, noi abbiamo degli afflussi continui di immigrati e si badi, non solo quelli che arrivano con l'emergenza Nord Africa, noi arrivano anche dall'est, si presentano davanti alle questure, sono fuori da quelle quote e lì ecco la mediazione, bisogna garantire anche il rapporto con una cittadinanza che in alcuni casi per ragioni che non sta a me indagare manifesta un'aperta intolleranza con primi cittadini che in moltissimi casi sono stati veramente il primo tassello della nostra Repubblica e quindi si sono in qualche modo fatti carico anche loro di mediare con le loro collettività. Però le faccio, non è così. Aspetta, le faccio, perché purtroppo poi è chiaro che in termini generali uno non può che essere d'accordo, la difficoltà è quando poi dai termini generali si cade nel caso concreto delle scelte che è chiamato a fare il prefetto. Per esempio, nella vicenda trevigiana che ha portato alla sostituzione della collega prefetto per il caso di Quinto, lì la politica locale è insorta dicendo, caro prefetto, anche se spetta a te a quel punto la mediazione e la decisione di vedere quali strutture sul territorio si rendono disponibili o siano disponibili, queste possono essere strutture pubbliche come disponibilità private, come sappiamo, da parte di chi affitta appartamenti, alberghi, eccetera, eccetera. Però la politica locale è insorta contro il prefetto dicendo tu sei una specie di braccio armato perché dovevi capire che mandare gli immigrati in un complesso edilizio dove ci sono i privati proprietari abbattendoli nel valore, questa roba non dovevi farla. Il governo, per in ogni caso a quel punto non gradendo la brutalità della polemica, interviene e sostituisce il prefetto. Ma in quel caso concreto il prefetto cosa diavolo deve fare? Cioè deve tentare di assolvere alla funzione di trovare il migliore dei posti possibili, sia pur tenendo conto di tutte le circostanze intorno, oppure deve anteporre alla sua decisione di allocazione le circostanze intorno? Perché se deve anteporre le circostanze intorno, in vasta parte d'Italia dove ovviamente la gente non le vuole, significherebbe non sistemarli. Io non li invidio i prefetti che devono fare quella scelta. La sua risposta qual è? Guardi, la mia risposta è netta, nel senso che premetto di non conoscere nei dettagli la situazione, quindi quando tale... Sì, non le chiedo un giudizio, ci mancherebbe. Non voglio entrare, ma non perché, non voglio, perché non conosco, no? Io qualcuno preferisco conoscere prima di deliberare, però è comune questa cosa, cioè quello che è successo a Treviso, da come si legge sui giornali, non è una cosa diversa da quella che avviene in molte altre sedi. Qui a Ravenna ieri avevamo 14 pakistani davanti alla questura all'improvviso, capisco che non sono tantissimi, però... sono quei numeri, ma in una città culturalmente voglio dire sviluppata rappresenta, e quindi devi trovare una soluzione. Ora, la difficoltà del prefetto è quella di andare ad individuare delle soluzioni che vadano a mediare, a conciliare queste due esigenze. Da una parte una politica locale, da quello che capisco, che in qualche modo non voleva questo tipo di presenza, e dall'altra parte la necessità di garantire il rispetto delle regole che è quella data dalla ripartizione. Ora, nel caso di specie, ribadisco, io non so se ci siano stati o meno previ contatti tra il prefetto di Treviso e le articolazioni del Ministero che si occupano di questo non lo so, non so se c'è stato un rapporto e in qualche modo è stata specificata l'azione messa in campo, però veda, io la cosa che... Nella realtà il governo è intervenuto con questa decisione drastica, non proprio ordinaria e comune, addebitando agli uffici della prefettura un inadeguato approfondimento delle condizioni preventive all'assunzione della decisione. Questo è quello che abbiamo saputo come giornalisti, ecco, insomma. E su una cosa così delicata sentirsi, penso, rappresenterebbe il minimo, e da quello che ci hanno insegnato avviene sempre. Quindi non voglio fare una difesa d'ufficio, infatti, no, ma infatti secondo me tutti infatti hanno scritto un pezzo, come dire, è una toppa politica, perché questo poi è quello che hanno scritto tutti i giornali, perché però io le dico una cosa, la dico a lei, insomma, lei parlava con gli ascoltatori. Io mi chiedo una cosa, qual è l'animo, ed ecco perché noi siamo, tra virgolette, usciti, qual è l'animo con cui ognuno di noi da domani lavora su questa cosa? Su questa come su tante altre cose. No, pensi, certo. Pensi a una partita di calcio o a svuotare uno stadio quando ci sono delle... No, lo capisco, lo capisco. Allora, ecco, quando io parlo di spalle coperte, uso esattamente questo termine, è perché, la dico tutta, si può anche riconoscere che c'è stato un errore. Ma forse quell'errore, se c'è, non parlo del caso specifico, ma in generale, può essere anche risolto in maniera forse un po' meno eclatante, perché è l'intera categoria che viene criminalizzata. Certo. L'esempio che faccio io è che io domani sono comandato a fare un editoriale del Messaggero, che però faccio con decisione e convinzione, perché il danno a centinaia di migliaia di romani dopo settimane e settimane è incolmabile, ingiustificabile, cioè, e purtroppo spetta al prefetto dover far scattare le progettazioni. Tutti noi siamo consapevoli che è la politica che gli chiede di non farlo, e però alla fine agli occhi dei cittadini sarà il prefetto che non l'ha fatto, e centinaia di migliaia di romani tutti i giorni disastrati con la metropolitana che non funziona. Ecco, l'esempio che le faccio io è che purtroppo, esponendovi alla non copertura la politica, poi alla fine vi fa i capri espiatori, come dire, ma è lui che non l'ha deciso, che c'entro io, mica lo devo decidere io, dice il sindaco. Beh, bel guaio, perché intanto di fronte a centinaia di migliaia di persone la responsabilità di un mancato esercizio di un diritto dovere che è la politica che sta chiedendo di non esercitare va in capo a qualcun altro, cioè al titolare formale, a cui si dice però non puoi farlo adesso che è la nostra municipalizzata, stiamo aspettando da ora che il governo ci dica se la ricapitalizza, è più importante che il governo ci metta i soldi nell'ATAC, aspetta prima delle precettazioni, chi se ne frega dei passeggeri. Questa è la politica che glielo dice al prefetto. Io non invidio il prefetto che a questo punto si trova con la mano politica che gli allontana la penna dal foglio delle progettazioni, e centinaia di migliaia di persone che legge alla mano dicono cos'altro deve avvenire perché le firmi con le progettazioni. Questa è l'Italia, torniamo tra un minuto a parlare di questo argomento. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a parlare del discusso dalla politica e dai cittadini il ruolo dei prefetti nel nostro ordinamento, su vicende che spaccano, dividono, alimentano polemiche. Si tratta degli immigrati o si tratti dello sciopero dei trasporti a Roma, dello sciopero bianco di un'azienda fallita che aspetta che sia il governo per l'ennesima volta a ricapitalizzarla perché il Campidoglio non ha i soldi, cioè l'ATAC. Ed è con noi il vicepresidente dell'Associazione Sindacale dei Funzionari Prefettizi, Antonio Giannelli. Allora, molti sms interessanti dai nostri ascoltatori, perché c'è chi dice, per esempio, caro Oscar, i prefetti devono essere rigidi e precisi. Mauro invece da Milano ci dice: il prefetto, lo ricordo, a Milano bloccò sgomberi di case occupate per evitare tensioni sociali, ma questo risultò in uno schiaffo alla legalità e ai cittadini onesti. Questo capita, Mauro, quando poi il prefetto deve prendere le famose decisioni di mediazioni, che ovviamente non piacciono a tutti. Ermanno ci dice: la figura del prefetto non dovrebbe esistere, è anacronistica, è napoleonica, come avete detto, infatti c'è perciò obsoleta se fosse uno stato federale. Sono anch'io per un modello federalista, figurati, io addirittura alla Svizzera, però in Italia nel nostro ordinamento dobbiamo ragionare su come è il nostro ordinamento oggi, e qui il problema è che la politica gli tira la giacca ai prefetti, anche se sulla carta i prefetti non dovrebbero ascoltare più di tanto, pur mediando, ma mediando guardando alle tensioni sociali che si creano tra cittadini, ai redditi, eccetera eccetera, non mediando perché il partito X dice Y, il partito Z dice X più Y. Qualcuno di voi, come Roberto da Bergamo, infatti dice: beh, allora la vera responsabilità politica è quella del ministro all'interno, e io su questo sono molto d'accordo, caro Roberto, perché la politica, la responsabilità politica in capo alla cosa dei prefetti è esattamente del signor ministro Alfano, e qui non aggiungo altro, liberi voi di pensare quello che volete su come il ministro svolge e o meno all'altezza dei suoi compiti. Sentiamo rapidamente qualche opinione telefonica e poi la facciamo commentare al dottor Antonio Giannelli, che è con noi il vicario del prefetto di Ravenna. Ma io ho l'audio in cuffia che va e viene, non è che l'audio arriva agli ascoltatori normalmente, no, scusate se chiedo alla regia. Allora, Piero da Roma intanto, Piero da Roma ci sente? Sì, la sento. Buongiorno. Eccoci, prego, buongiorno, dica. Allora, io abito a Casale di San Nicola, che ormai tutta Italia conosce. Eh sì. Perché con quello che è successo. Allora, io dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista di uno che si è trovato in mezzo alla cosa, premetto che non faccio parte degli abitanti che si sono rivoltati, anzi. Però detto questo, io mi chiedo quale cortocircuito venga fuori fra la politica, la prefettura e la municipalità. Mm. Perché il mio parere è che il prefetto debba fare il suo mestiere, nel caso poi, tutto sommato, non penso che l'abbia fatto male, ma questo è il mio giudizio personale. La municipalità, che dovrebbe dare certe indicazioni, ma dato che c'è un bando di gara a cui si risponde a prescindere dalla municipalità, perché poi chi risponde decide che struttura fare e dove metterla, quindi in teoria non è neanche il prefetto e non è neanche la municipalità, ma è soltanto chi risponde a un bando di gara. Quindi chi risponde a un bando di gara si sceglie la sua struttura, che salvo poi verifiche verrà giudicata più o meno idonea, tutto questo a prescindere dai cittadini. Nel caso nostro c'è che secondo me è stata esagerata la reazione, ma ci sono comunque delle problematiche. Ma ci sono delle problematiche. Lei in realtà sta puntando esattamente il dito nell'inchiesta poi di Mafia Capitale, si capisce proprio dagli atti che è così a livelli enormi, vista la concentrazione, vista la fame della politica per avere i soldi dei contributi dovuti per ogni immigrato, sul meccanismo attraverso il quale si arriva alla allocazione. Attenzione, bisogna distinguere se si tratti di allocazione temporanea d'urgenza su cui il prefetto fa, oppure quella attraverso gare, scegliendo situazioni invece di medio-lungo periodo. Però lei giustamente dice lo Stato deve rivedere le sue procedure, non è colpa del prefetto in quel caso. Giuseppe da Milano che pensa? Giuseppe, prego. Ma guardi, buonasera a tutti. Io penso che i prefetti siano emanazione dello Stato, per quanto napoleonica e quant'altro, ma lo Stato è i cittadini, quindi i prefetti sono pagati dai cittadini. E allora se sono pagati dai cittadini devono scegliere un granus salis, e quindi non è possibile che abbiamo un Gabrielli Bava Beccari, ricordate Bava Beccari? Ecco, è la stessa cosa, mano di ferro su delle signore sedute per terra che avranno bloccato, ma ritengo che almeno che il prefetto non mi dica, io sono uno che ha fatto gli anni di piombo a Milano dalla parte della minoranza, non è che il prefetto mi può dire che i cittadini non possono protestare. No. Ma attenzione, però i prefetti qui non stanno dicendo questo, i prefetti stanno dicendo ai politici ci fate fare da capri espiatori, perché devo dire, non facciamo dire all'associazione dei prefetti quello che i prefetti non hanno detto, non se la sono presa con i cittadini, se la prendono con i politici, cioè con i politici che hanno responsabilità istituzionali, e poi li mandano a casa, perché li lasciano non con le spalle coperte, come ha detto prima Antonio Giannelli. Qual è il commento, Antonio Giannelli, a questi nostri ascoltatori, alle loro opinioni? Quasi telegraficamente il primo ascoltatore mette l'accento su una cosa per noi in questo momento importantissima, anche se poco conosciuta, cioè la conciliazione necessaria tra l'urgenza e le procedure amministrative. Tra qualche anno, o se non tra qualche mese, qualcuno si accorgerà di quanti soldi stanno passando attraverso le prefetture e quanti bandi di gare che hanno delle procedure, pensate, per gli appalti pubblici, vengono conformate su persone. Questa è una riflessione che lascio e sulle quali noi dobbiamo operare, ecco, per garantire... Allora, guardate che Giannelli ce l'ha detto in termini tecnico, ma capite che c'è da rabbrividire, perché è lì che c'è molto interesse della politica, non solo a Roma in Mafia Capitale. Quindi tenete conto che i prefetti a questa roba qua, e non sono loro a voler fare queste cose. Nel frattempo sono sbarcati stamani al Molo Marconi di Messina con il pattugliatore della Guardia Costiera 500 altri 78 migranti, uomini, donne e bambini, per lo più provenienti dall'Africa subsahariana, e questa è l'Italia. Grazie Antonio Giannelli, continuate con la 24, appuntamento con me a domani.